Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo sulla legge approvata ieri dal Senato, ossia la riforma del contratto di lavoro, di nuovo strascichi polemici oggi, ma soprattutto cercheremo di capire con uno degli ispiratori della riforma, e mi riferisco all'economista Michele Tiraboschi, che ha in questo momento la cattedra che fu di Marco Biagi, allievo lui stesso di Marco Biagi, i dettagli di questa riforma al di là della polemica politico-sindacale. Diciamo, perché non c'è solo la riforma dei contenziosi sul lavoro, quindi la possibilità di andare all'arbitrato invece che andare di fronte al giudice, ci sono tante altre novità, tra cui la lotta al sommerso, la riforma degli ammortizzatori sociali, l'apprendistato, anche lì ne parlammo a suo tempo, qualche polemica sull'apprendistato, insomma. Cercheremo di entrare negli altri aspetti di questo disegno di legge. Poi parleremo dei mercati finanziari, come sempre, giornata positiva anche oggi, più 0,4 Milano. Tra l'altro Milano è la migliore in assoluto, perché Parigi perde lo 0,3, Francoforte perde lo 0,4, Londra pure, l'America guadagna lo 0,2, Milano quindi si stacca da tutto il gruppo delle borse europee, per via di alcuni titoli che si chiamano soprattutto i bancari: Popolare Milano più 3,4, Monte dei Paschi più 2,4, Banco Popolare più 2,2, come Intesa San Paolo. Corre meno oggi Unicredit, che ieri però molto era salita, Unicredit è più 0,7% come UbiBanca. Tra i titoli che vanno bene, oltre a quelli citati, Italcementi più 3%, Exor più 2,90, qui di nuovo c'è l'effetto delle dichiarazioni di Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, ieri, che ha detto che il prossimo 21 aprile nel Consiglio di Amministrazione si parlerà anche dell'ipotesi spin-off. Ne abbiamo parlato a lungo ieri, cioè della separazione tra, da un lato, il gruppo Fiat come auto e dall'altro invece Fiat come il resto delle attività. Dicevo, Exor più 3% ancora. Per quello che riguarda i titoli, Italcementi più 3, Impregilo più 2,80, l'Automatica più 2,5, Fiat più 2%, Pirelli più 2, Parmalat più 1,5 come Prismian, Geox più 1,3, Mondadori pure e ancora Mediolanum più 1,1, Ansaldo STS più 1% come le generali, Buzzi Unicem più 0,90. Fronte opposto, male Autogrill oggi, meno 3,1%, meno 2,4 Telecom, Italia meno 1% Fondiaria. Su Autogrill ci sono notizie di mercato, su Telecom dico subito che sono sempre notizie che non hanno a che fare con i conti in senso stretto, mettiamola così. Enel meno 0,6, CIR meno 0,6. L'euro è a quota 1,3613. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Oltre che di riforma dei contratti del lavoro e di borse, parleremo di un'operazione che ha un valore che va al di là del valore economico. Il gruppo Lavazza, che è leader mondiale nella distribuzione di caffè, come tutti voi sanno, immagino, ha acquisito una società storica milanese, quella che produce marchi Raclea, ma non solo, 50 milioni più o meno l'operazione, ma soprattutto rafforzerà la sua presenza in India. Ci sembra uno di quei casi in cui le aziende italiane medio-grandi vanno a aumentare la struttura e vanno anche ad aumentare la presenza nei mercati esteri più interessanti. E poi il settore delle costruzioni, oggi insomma il rapporto Istat sull'andamento delle costruzioni segnala un meno 11,4% nel 2009 e un calo forte anche nell'ultimo trimestre del 2009. Il mercato dell'edilizia, delle costruzioni non si sta muovendo, e ricordo che da solo vale il 10% del PIL italiano. Le altre notizie in breve. Chiaramente vedo anche con i messaggi, parleremo, commenteremo brevemente la decisione della Banca Centrale Europea di lasciare i tassi invariati. Ascolteremo alcuni passaggi del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Dicevo, le altre notizie, volete già subito il petrolio, e petrolio sia sempre fermo a $80, $80,8 al barile. Per quello che riguarda invece le notizie di carattere internazionale, ma che riguardano anche l'Italia, il gruppo russo Severstal ha acquisito la quota che gli mancava delle acciaie Lucchini, il 20%, quindi ha il 100% del gruppo dell'acciaio, ex gruppo dell'acciaio, a questo punto Lucchini, storico nome dell'industria dell'acciaio italiano e soprattutto bresciano. Allora, oggi il numero uno di Citigroup, sapete che ormai sta quasi diventando una rubrica fissa il nostro appuntamento con i bonus dei manager delle grandi banche e istituzioni finanziarie americane. Dicevo, il numero uno di Citigroup, Vikram Pandit, ha ringraziato i contribuenti americani per aver aiutato la banca a costruire un ponte per superare la crisi. Siamo impazienti di aiutarli, ha detto Pandit, a realizzare il valore sull'investimento che hanno effettuato. In realtà sappiamo tutti che i contribuenti americani sono stati obbligati di fatto a salvare Citigroup. Lo Stato americano ci ha messo 50 miliardi di dollari nel periodo più profondo della crisi, 2008. 25 miliardi di dollari sono già stati restituiti. Anche nel 2009 Citigroup ha chiuso con 1,9 miliardi di dollari di perdita. Il numero uno Pandit aveva detto che avrebbe rinunciato al bonus, però il generosissimo comitato di compensi ha deciso comunque di corrispondergli un bonus anche per il 2009. Calano le richieste di sussidi di disoccupazione in America, ma continuano a calare meno delle attese, a meno 29.000 unità contro attese di 47.000 unità. Sale il tasso di produttività invece americano e salgono secondo le attese anche gli ordinativi e l'industria, più 1,7%. Continuano a calare invece i compromessi per l'acquisto di abitazioni non nuove. Gli analisti attendevano un aumento, ma in realtà c'è un meno 7%. A chi ce lo chiede, ripeto, i tassi di interesse sono rimasti invariati, come ampiamente d'attesa in Europa, all'1%. Per quello che riguarda la Grecia, Trichet ha detto che la Grecia possa uscire dall'euro è un'ipotesi assurda e l'intervento del Fondo Monetario non sarebbe appropriato. Oggi la Grecia emette un'obbligazione decennale da 5 miliardi di euro e ha detto che il direttore dell'Agenzia Greca per la gestione del debito ha detto che questa offerta va a gonfie vele. Ci sono tantissime richieste, per cui insomma nessun problema a finanziare il debito secondo appunto i greci. Allora, il New York Times dice che la prossima speculazione dei trader dopo la Grecia colpirà Portogallo, Spagna, Italia e Irlanda. Il paese più vulnerabile, scrive il New York Times citando alcuni analisti, è la Spagna, dove il tasso di disoccupazione è del 20%, il buco di bilancio, cioè il deficit, è del 10%. E il vicino Portogallo è altrettanto vulnerabile, anche il governo italiano è pesantemente indebitato, ma è in una posizione più forte di Spagna e Portogallo, perché l'economia nel 2010 crescerà dello 0,9% e dell'1% nel 2011. Ultima nota, si è scoperto che, lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate, che aderire allo scudo fiscale sono stati 200.000 contribuenti italiani che hanno rimpatriato a questo punto fisicamente 35, ma giuridicamente 95 miliardi di euro. Ci fa sorridere la notizia perché sappiamo che sono solo 75.000 gli italiani che hanno dichiarato nel 2008 di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno, che è uno stipendio buono, buonissimo, ma non da miliardari. Eppure ce ne sono 200.000 che avevano milioni e milioni di euro all'estero. Qualcosa evidentemente non torna, per dire così. Vabbè, parleremo anche di Alitalia. Questa mattina c'è l'amministratore legato del gruppo Alitalia, Rocco Sabelli, ospite di Oscar Giannino. Adesso però il primo tema, come annunciato, 349-238-6666 per i vostri sms, mentre continuano ad arrivare novità sul mondo del lavoro, è arrivata il via libera definitivo del Senato, dopo due anni di iter parlamentare, al disegno di legge che modifica la parte normativa sul lavoro. Allora, oggi sono sbarcati all'Asinara, l'isola dove un gruppo di operai della Vinlis di Porto Torres hanno realizzato un loro, diciamo, reality molto particolare, l'isola dei cassi integrati, per così scimmiottando, ma in senso chiaramente critico, l'isola dei famosi. Sono sbarcati anche alcuni lavoratori dell'Alcoa di Porto Vesme. Comunque, dicevo, oggi ha di nuovo strascichi polemici tra la CGIL, soprattutto il ministro Sacconi. Ieri, nel commentare le prime reazioni a caldo della CGIL, il ministro Sacconi aveva definito, insomma, un'ennesima prova di malafede dei soliti noti, la polemica su un testo di legge come quello approvato ieri dal Senato. Solo la CGIL cerca di strumentalizzare una norma chiarissima che è da 2 anni all'esame del Parlamento, che è al 4º esame nelle Camere e che prevede soltanto una possibilità in più per il lavoratore di usare l'arbitrato se lo vuole, e comunque non è operativa, lo decideranno i contratti collettivi di lavoro a cui si fa rinvio. Così ieri il ministro Sacconi, oggi di nuovo la CGIL, per il segretario generale Epifani ha detto, potrei dire che anche Sacconi è solito noto, ma in realtà qui il problema è che con la misura appena passata, se si chiederà ad un lavoratore che deve essere assunto di rinunciare alla magistratura per la difesa dei suoi diritti, questo vuol dire che il lavoratore non sarà pienamente libero di dire di no, di sì, e se finisce sì, finisce sotto schiaffo del datore di lavoro, ancora più duro con Ferrati, ex della CGIL, che dice qui si rimette in discussione l'articolo 18, è un provvedimento grave, occorre un'iniziativa di massa come a suo tempo quando si tentò di rimettere in discussione l'articolo 18. In realtà noi vorremmo entrare nei contenuti di questa riforma e capire anche il principio ispiratore di questa riforma. Ecco perché siamo in collegamento con l'economista e docente Michele Tiraboschi, che insegna diritto del lavoro all'Università di Modena e editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera. Nonché allievo, visto che ne ricopre anche la cattedra di Marco Biagi, lo dico così e chiariamo anche lo spirito di questa riforma. Allora, prima i punti che hanno creato maggior attrito, poi invece altri punti che anche alla luce della polemica sono un po' passati in secondo piano, ma a noi sembrano forse quasi più importanti. Comunque, lo spirito, iniziamo dal cappello principale, lo spirito di questo disegno di legge, a cui anche lei ha contribuito, qual è? Perché lasciando fuori la polemica di carattere politico. Lo spirito che oggi si litiga in tema di lavoro, si litiga quasi sempre, non c'è un rapporto di lavoro che dà certezza, dà serenità al lavoratore, dà certezza all'imprenditore. Questo è un grande spreco di energie economiche, è anche un grande spreco di energie umane. Si litiga troppo e invece non si cercano di sviluppare rapporti di lavoro più partecipativi, più fiduciari, che guardano a crescere, a sviluppare, a produrre. E questo poi spiega perché il nostro paese sul mercato del lavoro ha tassi di produttività così bassi. Quindi lo spirito è quello di dare delle soluzioni, degli strumenti per rendere più efficiente il mercato del lavoro e anche per rendere più giusta, più efficace, più tempestiva la giustizia del lavoro. Avere una giustizia del lavoro come quella attuale, dove per avere una risposta su una controversia bisogna aspettare mediamente 4 anni, significa non dare i diritti alle persone in carne ed ossa, significa non consentire alle imprese di programmare, di fare scelte delicate che devono basarsi appunto su un quadro regolatorio chiaro. Invece oggi andare davanti a un giudice è spesso un terno all'otto. Allora, non c'è cosa migliore per fugare i dubbi, a mio avviso, che porre questi dubbi e non certo ne nasconderli. Vediamo un po' sui temi più controversi. Il disegno di legge approvato dal Senato, dopo quasi 2 anni, devo dire, di iter parlamentare, prevede, primo punto controverso, che per risolvere, scusatemi il gioco di parole, le controversie di lavoro si possono scegliere a questo punto 2 strade, non solo più quella giudiziaria ma anche quella arbitrale. Anche qui polemica è scattata sul fatto che già al momento dell'assunzione potrebbe essere stabilito nel contratto l'eventuale ricorso all'arbitrato. Perché si introduce un tema come una possibilità come quella dell'arbitrato, e quindi il fatto che le parti possono stabilire clausole compromissorie per demandare la soluzione delle controversie a un collegio arbitrale, e perché questo secondo voi può essere una semplificazione, uno snellimento? Innanzitutto occorre fare chiarezza su un fatto: al momento rimane in vigore solo il ricorso al giudice, perché la legge dice che ci sono 12 mesi di tempo perché le parti sociali scelgono una soluzione condivisa volta a sperimentare l'arbitrato. Quindi al momento, se non c'è un contratto collettivo, non è possibile percorrere questo canale parallelo. Quindi c'è tempo, c'è molto tempo, perché gli interessi contrapposti in gioco, i lavoratori organizzati attraverso i loro sindacati e le associazioni datoriali degli imprenditori, valutino se rispetto all'incertezza totale che c'è oggi, rispetto alla giustizia del lavoro, rispetto a tempi lunghissimi che non danno risposte chiare ai lavoratori e non danno certezza alle imprese, non sia opportuno sperimentare quanto avviene pacificamente in tutti gli altri paesi del mondo, cioè soluzioni arbitrali che sono molto più efficaci, rapide e soprattutto sono molto più attente alle peculiarità del mondo del lavoro. Un giudice ha letto i codici, ha studiato sui libri di testo, però spesso non conosce il mondo del lavoro, non conosce come è fatta un'azienda, non conosce le scelte organizzative di un imprenditore, non conosce le dinamiche sindacali, le relazioni industriali. Un arbitro normalmente è scelto fra, da un lato la commissione arbitrale è scelta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, poi c'è un terzo in questo collegio arbitrale che cerca di accompagnare la composizione degli interessi in gioco, quindi più sull'equità, più sui profili sostanziali che sui profili formali. Quindi sono degli step previsti dalla legge, passaggio attraverso un accordo collettivo. Se non ci sarà l'accordo, ci sarà un intervento del Ministro del Lavoro che convocherà le parti per sollecitare questo accordo, quindi soluzioni condivise e quindi non sono soluzioni imposte, sono soluzioni quindi ragionevoli. Ancora, per quello che riguarda la parte giudiziaria arbitrale, lei ha chiarito, professor Tiraboschi, come per ora resti in vigore quella giudiziaria. C'è il timore, l'hanno detto alcuni sindacati, che in realtà in fase poi di contratto, quando un dipendente viene assunto, gli venga, tra virgolette, imposto l'arbitrato, visto che la legge prevede che può essere stabilito già dal contratto, nel contratto, l'eventuale utilizzo dell'arbitrato rispetto al giudice. Beh, qui ci sono due ordini di ragionamento, uno di carattere generale su quello che è oggi il nostro mercato del lavoro e uno di carattere tecnico su quello che la legge dice oggi. Il primo è che questo aggiramento dell'articolo 18, non so come i sindacati non se ne accorgano, è da tempo in atto. Noi abbiamo un quarto dell'economia in nero, un'economia sommersa che vuole aggirare le norme, che fugge da norme ingestibili, non esigibili. Abbiamo uno sviluppo di contratti di collaborazione autonoma fittizia, proprio per aggirare l'articolo 18. Queste norme sono uno stimolo all'occupazione di qualità, all'occupazione stabile, all'occupazione a tempo determinato, incentivando l'imprenditore a scegliere questi strumenti buoni perché ha la certezza di quello che succederà in caso di controversia. Questo è quello che occorre chiarire oggi. Oggi l'aggiramento delle tutele del lavoro subordinato dell'articolo 18 è in atto da tempo, c'è un aggiramento strisciante o nell'economia sommersa o con le finte collaborazioni o con altri strumenti contrattuali, l'abuso degli stage o di altri strumenti che dovrebbero essere usati invece per far incontrare giovani e il mondo del lavoro. Sul piano tecnico invece la risposta, credo che sia una risposta da verificare e sperimentare, il lavoratore non è solo, non è lasciato solo davanti a un imprenditore che gli impone una clausola di questo tipo. Queste clausole funzionano solo se sono approvate in apposite commissioni di certificazione che sono fatte o dagli enti bilaterali, quindi il sindacato è presente in queste commissioni e il sindacato può verificare la volontà vera, genuina del lavoratore che viene sentito a parte rispetto all'imprenditore. Oppure in altre sedi come le direzioni provinciali del lavoro, l'ispettore del lavoro, il ministero del lavoro o ancora le università. Quindi un lavoratore prima di tutto che non è più come 50 anni fa un soggetto che non ha una volontà, quindi si concede al lavoratore di esprimere la sua volontà, ma a sua garanzia da un lato si dice che è il contratto collettivo a stabilire come e quando si può ricorrere all'arbitrato e in secondo luogo c'è una commissione di certificazione che va a verificare e a sostenere la genuinità di questa volontà. Allora, lei ha toccato un punto molto importante, a mio avviso, è forse il punto, perché come sempre si può ragionare su un paese immaginario, lo dico anche quando tocchiamo i temi dell'evasione fiscale, quando diciamo attenzione, qui non si tratta di eliminare l'evasione fiscale, si tratta di portare l'evasione fiscale a livelli europei, nessuno può immaginare un paese che poi non esiste. Così come nel caso del mondo del lavoro è inutile, a mio avviso perlomeno, immaginare un paese che non esiste. Sappiamo, ci sono inchieste anche giornalistiche in queste settimane di cosa stia portando questa crisi, cioè rapporti professionali che vengono professionisti che vengono obbligati a diventare partita IVA per, appunto per non risultare dipendenti, i pro li hanno chiamati, poi ci sono i coco pro, cioè tutto un insieme di meccanismi in cui per non essere in qualche modo blindata l'azienda chiede al lavoratore o al collaboratore di avere forme di contratto che una volta si sarebbero chiamate atipiche, ma che sono atipiche per la mansione svolta. Se ho ben capito, lei dice, in questo modo offrendo alla società, all'azienda, la possibilità di avere un contratto in cui in caso di controversia ci si risolve con un arbitrato, stiamo facilitando, diamo una possibilità, cerchiamo di eliminare le scuse per ricorrere da parte del datore di lavoro a contratti atipici, nel senso che non rispecchiano quello che è il vero rapporto di lavoro, capito bene? Sì, il punto è proprio questo, perché da un lato è vero, oggi i lavoratori si sentono meno protetti, meno tutelati, ma è anche vero che gli imprenditori continuano a lamentarsi che le norme non sono chiare, non sono certe, quindi non c'è un tentativo patologico di sfruttare una persona, un contraente debole, ci sono ancora patologie, ma la stragrande maggioranza del tutto produttivo è fatta di imprese sane che vogliono però competere con regole certe e chiare. Queste regole oggi non ci sono, c'è un eccesso di norme, un eccesso di regole, regole oscure, di difficile interpretazione, ed è difficile per un imprenditore fare delle scelte, assumersi pienamente il rischio di impresa se non sai poi cosa succede. Questo disincentiva ad assumere. È un rebus oggi assumere, gestire un rapporto di lavoro, sapere che comunque poi si andrà a litigare. Allora i punti da fare sono due: da un lato modernizzare il mercato del lavoro con norme più sostanziali e dall'altro lato andare un po' ad abbattere tutti quei disincentivi verso un'occupazione regolare e di qualità. Sapere che ci può essere uno strumento di risoluzione del conflitto ragionevole, efficace, equitativo, basato sul buonsenso, sulla conoscenza degli ambienti di lavoro, è un incentivo non solo per l'imprenditore ad assumere, a competere, a stare sui mercati, a non andare via dall'Italia, ma è anche un incentivo per il lavoratore che conosce il quadro delle sue tutele, che viene stabilito nei contratti collettivi e viene stabilito in queste sedi di certificazione. Quindi un sostegno all'economia sana, a un sistema maturo fatto di pochi formalismi e soprattutto un sistema dove il diritto aiuta l'economia, non un diritto che invece serve solo a diventare contenzioso, incentivato poi dal fatto che ci possono essere mediatori giuridici, avvocati, consulenti, che sono gli unici che sanno gestire questo sapere oscuro. No, servono regole e norme che siano comprensibili a ai tutti. Due diretti interessati. Andiamo avanti con i dettagli, perché ce lo chiedono anche al 349-238-6666. Allora, c'è un'altra norma in cui si dice, dentro questa legge, in caso di licenziamento si dovrà tenere conto anche delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo previsti nei contratti collettivi e in quelli individuali. Che cosa vuol dire in italiano, mi scusi? In italiano vuol dire questo, che oggi l'imprenditore quando assume non sa se poi dopo questo rapporto potrà continuare in maniera normale, serena, o potrà nascere un contenzioso che potrà anche portare a una risoluzione del rapporto, cioè un licenziamento. Ma la norma sui licenziamenti dice che si può licenziare o per giusta causa o per giustificato motivo. Cosa vuol dire? Non si sa. Quindi non c'è certezza in anticipo. Facciamo un esempio concreto, professor Tiraboschi. Se io nel contratto, se un lavoratore ruba in un'azienda, non si sa se questa è una causa così grave da dar luogo a un licenziamento o meno. La norma dice che se il rubare, il venire alle mani con un collega, una gravissima insubordinazione, il non rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro, sono tipizzate, sono previste nei contratti collettivi e dicono che quel comportamento, quindi in anticipo lo dicono il codice disciplinare, che è noto a tutti i lavoratori ed è noto anche all'imprenditore, se quel comportamento dà luogo a un licenziamento, questa è la tipizzazione del contratto, il giudice deve rispettare quella tipizzazione, quella indicazione che danno le parti sociali o i contratti. Quindi poniamo che nel contratto nazionale dei metalmeccanici o dei giornalisti o di chi volete voi sia previsto che, per esempio, la butto assolutamente come cosa assurda, il portarsi i giornali a casa sia motivo di licenziamento, questo è un contratto nazionale, quello rientra nella caratteristica della giusta causa o del giustificato motivo per il licenziamento. Oppure, in maniera ancora più concreta, se nel contratto nazionale è previsto che venire alle mani con un collega sia una giusta causa per il licenziamento, si tiene conto di questa particolarità, cioè non tutti i contratti nazionali prevedono gli stessi motivi di giusta causa o di giustificato motivo per licenziamento, quindi voi invitate, la legge non voi invitate, invita a prendere atto poi del singolo contratto di categoria. Esatto, e soprattutto dice in anticipo quali sono i comportamenti leciti, i comportamenti illeciti, la loro gravità e quella gravità tale che può dar luogo per esempio a un licenziamento. Allora adesso c'è il metodo della pubblicità, poi commentiamo, vorrei capire altri aspetti di questa norma, se no ci concentriamo solo sull'arbitrato o piuttosto ricorso dal giudice, come lei ha chiarito però non cambia nulla su questo, ci sono novità invece sugli ammortizzatori sociali, sul lavoro nero e anche sull'apprendistato. Dico una cosa, chi scrive al 349-238-6666, rapidissima. Stiamo facendo al professor Tiraboschi, che oltre che essere allievo di Marco Biagi ha contribuito come economista, non è un politico, tutte le domande e le obiezioni che per esempio hanno mosso alcuni sindacati, quindi non mi sembra che non stiamo toccando i problemi, lo dico ad alcuni ascoltatori, mi interessa parlare dei contenuti e non delle posizioni politiche, ecco perché non ci sono né sindacalisti né politici, vogliamo capire come sempre in questo programma cosa c'è come contenuti concreti dentro questa legge. Sto girando anche molto gli sms e delle perplessità, dei dubbi che voi stessi avanzate al 349-238-6666 per i vostri sms. Il metro, la pubblicità, poi concludiamo con le altre novità previste in questa legge e poi la borsa che ha chiuso con un più 0,4% a Milano contro un meno 0,4% in media nelle altre borse europee. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, continuiamo e concludiamo l'approfondimento sulle novità previste in disegno di legge e poi parliamo della borsa, più 0,4 Milano, mentre le altre borse europee hanno fatto meno 0,4%. Attenzione, lo dico, insomma, non è tanto l'articolo 18, qui si prevede la possibilità di avere anche l'arbitrato oltre che l'andare di fronte al giudice. Sappiamo quanto lunghe sono anche le procedure. Voglio dire, se il datore di lavoro è d'accordo su questo, perché non può essere fornito un diritto invece che aspettare sempre il giudice il reintegro? Anche perché poi sappiamo che i soprusi delle volte, se ci sono anche col reintegro del datore del lavoratore, viene messo in un angolo e fatto muffire, per cui c'è, cioè, attenzione, okay, e non sempre si riesce ad arrivare al mobbing, lo dico perché la verità non è tutta bianca e nera, c'è un mondo del lavoro che è assolutamente eterogeneo. Quello che è certo è che con questa crisi, e poi torniamo col professor Della Ringa e col professor Tiraboschi, quello che è certo è che con questa crisi molte aziende hanno premuto per avere contratti non corretti, non, diciamo, che non rappresentano il vero rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Ecco perché se si introduce un po' di flessibilità e di sicurezza nelle imprese hanno anche meno scuse, alibi, vengono più stimolate a dare dei contratti che corrispondono il più possibile a quello che è il vero rapporto di lavoro, senza tanti coco pro o interinali o stagisti o pro. Lo dico perché insomma la rigidità dell'assunzione c'è tutta e spesso spinge anche al contratto atipico, nel senso che non rispecchia il vero rapporto. Professor Tiraboschi, diciamo che però in questa legge, al di là del dibattito politico, ci sono molte novità che non riguardano solo la cessazione del rapporto. Partiamo dagli ammortizzatori sociali, che poi significano cassa integrazione straordinaria, ordinaria, in deroga, contratti di solidarietà, cioè il motivo per cui l'Italia ha retto meglio sul mondo del lavoro alla crisi nel 2008-2009. Questa riforma non parla solo del processo del lavoro, è una riforma molto complessa, 50 articoli, che vuole portare a compimento la legge Biagi. La legge Biagi nel 2001 prevedeva la flessibilità, l'occupabilità, prevedeva anche la riforma del giudizio del lavoro e prevedeva la riforma degli ammortizzatori. Oggi abbiamo finalmente una delega per procedere nei prossimi mesi a una riforma degli ammortizzatori sociali, per mettere a sistema e coprire anche i lavoratori e le aziende che non sono coperti, per una riforma moderna di ammortizzatori che punta molto anche su efficienti servizi per l'impiego e su una formazione di qualità. Altro aspetto che è passato un po' in secondo piano, ma a nostro avviso è molto importante, il sommerso. Insomma, sappiamo che in questo paese poi la crisi ha portato a una anche esasperazione di pratiche illecite precedenti. Lo diceva ieri la Guardia di Finanza in merito al sommerso dal punto di vista fiscale. sappiamo che poi la tentazione è, con queste difficoltà, di avere contratti o atipici o addirittura in nero. Che cosa prevede la legge nella lotta al sommerso? Anche qui c'è un potenziamento degli strumenti che hanno in mano gli ispettori del lavoro per sanzionare comportamenti illeciti, fraudolenti, rispetto invece a comportamenti meno gravi dovuti alla complessità del quadro giuridico. Anche qui si sta completando la legge Biagi con una modernizzazione delle azioni di vigilanza e controllo sul mercato del lavoro. Ultimo aspetto che vorrei toccare con lei, quello dell'apprendistato. Allora, che è introdotto nei vari punti, nei comma di questa legge. Perché? Perché ne parlammo a suo tempo, quando uscì una norma che fece un po' saltare tutti sulla sedia, perché sembrava, da una prima lettura, che ci fosse la facoltà per chi è arrivato a 15 anni, quindi la scuola dell'obbligo va fino a 16, di saltare, diciamo, fare l'ultimo anno al lavoro e non in classe. E da qui l'obiezione, la critica: attenzione, si vanno a creare studenti di serie A e di serie B, chi ha bisogno di trovare un lavoro finisce praticamente la scuola a 15 anni, l'altro è più formato fino ai 16. Ce la può chiarire, visto che diventa appunto legge con questa legge? Sì, anche qui direi che occorre guardare al paese reale. Il paese reale ci dice che abbiamo 126.000 ragazzi italiani sotto i 17 anni che non sono né a scuola né al lavoro, sono ragazzi che sono condannati alla disoccupazione, sono condannati all'emarginazione, sono condannati a un disagio che non può che incrementare nel corso degli anni. Questa norma è molto semplice, dice che l'obbligo di istruzione e formazione viene mantenuto come era mantenuto prima, quindi l'età di accesso al lavoro rimane a 16 anni. Esiste però un canale scolastico che non è un canale scolastico tradizionale, dove io imparo in aula, a scuola. Questi sono ragazzi che sono scappati dalla scuola, che non hanno l'attitudine per la formazione tradizionale, ma che possono comunque avere una qualifica, un titolo di studio, quindi siamo ancora nella scuola, attraverso un apprendimento negli ambienti di lavoro, attraverso l'apprendistato. Io posso diventare parrucchiere, posso diventare disegnatore, posso avere una qualifica professionale anche in apprendistato. Quindi questa è un'opportunità in più che si dà ai ragazzi di andare avvicinarsi al mondo del lavoro, ma rimanendo sempre in un ambiente, in un contesto che noi chiamiamo di istruzione, che alla fine del percorso lavorativo dà un titolo di studio. Professor Tiraboschi, nel concludere le giro una perplessità, obiezione che vedo al 349-238-6666 su quest'ultimo punto dell'apprendistato, che a mio avviso può essere il classico processo virtuoso o vizioso, a seconda di come viene poi interpretato. Virtuoso perché, se si permette di recuperare, come diceva lei, studenti che altrimenti creerebbero un abbandono scolastico o comunque che non sono interessati, si permette anche di creare un canale virtuoso col mondo del lavoro. Vizioso, e questa è la domanda e l'obiezione che arriva da alcuni ascoltatori, è se poi di fatto si dà la possibilità ai genitori, insomma, di togliere i figli da scuola un anno prima. No, questo non è assolutamente possibile, perché rimaniamo sempre nel sistema di istruzione e formazione, quindi questi ragazzi sono ancora a scuola, solo che per imparare un mestiere, poniamo il caso del parrucchiere, dell'estetista, certo, lo si impara meglio a scuola in un finto laboratorio con finte macchine, o lo si impara meglio affiancando un maestro che ti insegna il mestiere, che ti passa i segreti di questo mestiere, con una guida scolastica che verifica che la formazione sia effettivamente fatta? Io credo che un mondo moderno abbia bisogno di figure professionali che crescono a contatto di maestri veri, in ambienti produttivi, in ambienti veri, sapendo risolvere situazioni in azione, dinamiche, non una finta teoria che poi allontana questi ragazzi e li fa disperdere. Grazie, grazie al professor Michele Tiraboschi, che appunto insegna nella cattedra che fu di Marco Biagi. Ci tengo a ricordarlo perché lo spirito di questa riforma del mercato del lavoro è, come lei ricordava, la seconda parte dello spirito di Marco Biagi, che non era solo rendere più flessibile il lavoro in uscita, ma anche e soprattutto, per dire tutta, rendere più flessibile il lavoro in entrata, cioè creare un rapporto più semplici. E finché non si attua tutta non si può parlare di spirito di Marco Biagi. Quindi grazie a Michele Tiraboschi, editore del Sole 24 Ore, appunto docente di diritto del lavoro all'Università di Modena. Grazie a voi, buonasera. Allora, adesso arriviamo ai mercati. Vabbè, a parte qualche offesa, insomma, di leccapiedi e schiavo, devo dire che la maggior parte dei messaggi presentano anche dei dubbi e delle osservazioni, ma mi sembra costruttivi. Un operaio fa notare che se deve avere un risarcimento dopo 4 anni, cioè la riassunzione dopo 3-4 anni decisa, o dopo 2 anni decisa dal giudice, delle volte non è utile, perché uno cosa fa in quei 2 anni in questo licenziato? Magari se c'è un arbitrato di mezzo e si arriva anche a un calcolo economico è meglio. La mia frase sul fatto che noi abbiamo retto meglio di altri paesi sul fronte occupazione grazie agli ammortizzatori sociali è un giudizio di tutti, devo dire, anche dei sindacati oltre che del ministro. Meno male che c'era la cassa integrazione in automatico. Adesso però il traffico, poi la borsa, poi vediamo se rispondono anche altri sms che arrivano al 349-238-6666 per i vostri, appunto per i testi. Allora, la borsa adesso, non possiamo continuare a rispondere ai messaggi sulla riforma del mercato del lavoro. Molti di voi si chiedono invece, fanno una domanda anche, se fosse opportuno in questo periodo presentare una riforma del mercato del lavoro. Mi sembra un tema più politico, noi ci siamo occupati di spiegare cosa c'è dentro questa legge, sull'opportunità tra virgolette politica o no, ognuno la pensi come vuole e la pensi anche diversamente, però con un economista appunto allievo di Marco Biagi come Carlo Della Ringa non facciamo come dargliela, come Michele Tiraboschi, anche Della Ringa è stato allievo di Marco Biagi, ma comunque come Michele Tiraboschi non possiamo fare domande di carattere politico, non c'entra nulla nemmeno con lo spirito di questa trasmissione. La borsa. Allora, oggi Milano positiva, mentre il resto d'Europa è negativo, non di tantissimo, meno 0,4% Francoforte e Parigi, meno 0,1% Londra, Milano più 0,4%, grazie ai bancari che si chiamano oggi Popolare Milano più 3,7%, Monte dei Paschi più 2,70%, Banco Popolare più 2,1%, Intesa San Paolo più 2%, bene anche un titolo, anche Unicredito, anche se meno di ieri, ieri aveva corso moltissimo. Unicredito guadagna lo 0,6%, UbiBank lo 0,90%, Generali più 0,95%, Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, i bancari. Sì, oggi è stata un'altra giornata positiva per i titoli del comparto bancario dopo le nuove misure intraprese dal governo greco alla vigilia per evitare il default, quindi anche oggi insomma i titoli bancari si sono messi in evidenza e sono stati fra i migliori del listino. E quindi motivo insomma greco, ecco, chiamiamolo così, la situazione greca e anche le parole di Jean-Claude Trichet che adesso magari facciamo ascoltare, parole pronunciate anche sulla parte greca, e quindi il fatto che insomma la Grecia non uscirà mai dall'euro. Sentiamo questo passaggio, perché al di là dei tassi lasciati invariati, forse quello più importante della conferenza stampa, delle dichiarazioni di oggi di Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea. Leaving the euro area was an absurd hypothesis and of course I'll confirm that. L'uscita dalla zona euro è un'ipotesi assurda, lo ribadisco. Come Presidente della Banca Centrale Europea esprimo un giudizio molto favorevole sulle decisioni che sono state prese ieri dal governo greco. Ho detto io stesso al primo ministro greco che è stato molto importante che le decisioni assunte dalla Grecia fossero convincenti. Ciò avrebbe dato credibilità al piano di risanamento che è stato assolutamente necessario. Ritengo che le misure decise dalla Grecia siano appropriate e convincenti e credo sia un punto fondamentale. Le istituzioni europee hanno funzionato, è stata messa in atto la sorveglianza appropriata sul percorso che sta compiendo la Grecia. La Commissione ha fatto il suo dovere e il governo greco ha preso le giuste decisioni. Direi allora che abbiamo avuto un esempio del funzionamento delle istituzioni europee. I will say this is the functioning of the European institution. Così il Presidente della Banca Centrale Europea, e questo chiarisce il movimento dei titoli bancari. Su Fiat e quindi anche su Exor non c'è molto da dire, Guido, perché già le dichiarazioni di Marchionne le abbiamo fatte ascoltare ieri. Marchionne ha detto il 21 aprile parleremo anche dell'ipotesi di separazione Fiat Auto, della parte auto di Fiat dal resto del gruppo. Exor più 2,80%, Fiat ancora su questa ipotesi più 1,80%. Autogrill invece, oggi Conti. Utile netto a 37 milioni, ricavi stabili, ma non distribuirà dividendo, quindi nessuna cedola. Il titolo perde il 3% secco e va sotto i 9 euro per azione. Sì, proprio proprio l'assenza di cedola quest'anno ha penalizzato notevolmente il titolo in borsa, ha perso 3,07%. È vero che sostanzialmente anche l'utile si è ridotto, si è praticamente più che dimezzato, passando dagli 83,7 milioni di euro del 2008 ai 37 milioni attuali, a fronte di una situazione dei ricavi piuttosto stabile. Oggi subito dopo la diffusione dei conti, il titolo ha iniziato a cedere e man mano ha incrementato la perdita, chiudendo appunto a meno 3,07%. Allora, volete notizie di Telecom? Se ve ne sono, no, non ci sono notizie commissariamento e il resto, però tra i migliori Safilo più 12%, Cell Therapeutics più 11%, Basic Net più 9,7%, tra i peggiori Bioera meno 7,90% e poco altro, Benetton perde 3,14%. Allora facciamo rapidi, Telecom Italia da un lato e anche se ci sono notizie su Safilo e Basic Net. Sì, allora per quello che riguarda Telecom Italia non ci sono al momento notizie, anche se oggi appunto c'era attesa per capire sia su Sparkle sia su Fastweb cosa si sarebbe deciso a proposito di un possibile commissariamento che è stato prospettato nei giorni scorsi. Notizie ancora non ce ne sono, Telecom comunque ha ceduto il 2,04% e anche Fastweb ha ceduto l'1,1%, fra le altre cose gli operatori a proposito della compagnia telefonica di Telecom ci segnalavano anche che ci sono venute un po' meno le possibili aspettative di cambiamenti nell'azionariato. Oggi c'è anche perde il 2% per questo motivo alla fine. Beh, senti, una battuta perché siamo in chiusura, Basic Net e Safilo, se ci sono novità le diciamo, se no, no. Ma, guarda, su Safilo l'unica cosa è questo report di Bank of America che è tornato a coprire il titolo con un buy, coprisse. Nulla di particolarmente significativo. Vabbè, quindi però più 12% Safilo e più 9,7% Basic Net. Grazie a Guido Maurino, Radio Coro, il Sole 24 Ore, il GR, poi l'operazione Lavazza e il settore delle costruzioni, 349-238-6666 per gli SMS. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver parlato della riforma del mercato del lavoro come uscita dal disegno di legge ieri al Senato, l'abbiamo fatto con l'economista Michele Tiraboschi, e poi aver commentato i dati di borsa e anche le parole che hanno fatto ben intonare tutto il mondo bancario, le parole del Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che ha detto è escluso ed è fuori da ogni possibilità è un'uscita della Grecia dall'euro, ecco perché poi le banche sono andate particolarmente bene oggi. Adesso ci concentriamo su una notizia a nostro avviso più che positiva, un aggiornamento però di una notizia appena battuta dalle agenzie, Finmeccanica, i dati di Finmeccanica. Allora, ha chiuso il 2009 con un 16% in più di utile, il dividendo sarà di 41 centesimi di euro, l'indebitamento finanziario si è ridotto del 9%, Finmeccanica è il terzo gruppo italiano, penso per sicuramente di quelli partecipati, e ordini in aumento del 20% a 21 miliardi di euro contro i 17 miliardi del 2008. Al Tesoro, che ha il 30% di Finmeccanica, andrà una cedola, quindi un dividendo, di 70 milioni di euro. Il titolo Finmeccanica come ha reagito in borsa? Più 0,4%. Dicevo, una buona notizia, perché, ma a noi fa piacere, insomma, parlare di aziende italiane che in questo periodo fanno shopping, acquisizioni, si strutturano e anche forse riescono a aumentare la presenza sui mercati internazionali. La notizia di oggi riguarda il gruppo Lavazza, che tutti voi conoscono, è leader in Italia nel mercato retail, cioè nel mercato dei consumatori, quindi il caffè che si compra per l'utilizzo domestico. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Lavazza, dottor Gaetano Mele, buonasera. Buonasera, dottore. Allora, voi avete in Italia una quota del 47,6% nel mercato retail, vuol dire 16 milioni di famiglie, lo dico senza nessun, intanto parliamo di tutti, su 22 milioni usano il vostro caffè, senza nulla togliere agli altri marchi storici del caffè italiani. Allora, un fatturato di 1 miliardo e 100 milioni di euro, 4.000 dipendenti nel mondo, di cui 1.600 in India, poi magari mi dice anche una cosa su questo. Sì. Dopo che avete acquisito in India, e anche questo la dice lunga su chi si sta già muovendo sulle reti lunghe, quindi Cina, India, ma non solo, avete acquisito in India due società, Fresh Honest e Barista, che è la seconda catena indiana di coffee shop per numero di punti vendita e conta globalmente 150 locali, di cui 132 in India. Giusto? Beh, sono 200 i bar che noi abbiamo in India, e questo spiega anche l'alto numero di persone che abbiamo acquisito, perché 200 bar impiegano molte persone. Il motivo per il quale abbiamo fatto questa acquisizione era un'ottica di lungo termine. Noi vogliamo crescere soprattutto all'estero, non avendo molti margini di crescita in Italia per la quota che abbiamo. L'India è uno dei paesi certamente per noi molto interessanti. Tra l'altro voi avete 4 stabilimenti in Italia, 2 all'estero, India e Brasile, e 14 miliardi di tazzine di caffè Lavazza vengono consumate in un anno nel mondo. Il motivo per cui parliamo però è per di voi è per un'operazione Italia su Italia, cioè voi avete annunciato che comprerete Aircom, che sarebbe praticamente Eraclea, i marchi sono Eraclea, Dulcimea, Whittington, insomma Eraclea è forse il più noto, è una società storica, un'azienda milanese storica che ha 25 milioni di euro di fatturato e ha 60 addetti, 100 agenti in giro per l'Italia, 20.000 punti vendita nel mondo, è presente in 30 paesi. Quanto pagherete l'intera operazione? Abbiamo stanziato 50 milioni di euro tra l'acquisizione e i programmi commerciali che vogliamo realizzare nei prossimi 3 anni. L'obiettivo che ci siamo prefissati sarà quello di portare l'azienda a fatturare nei 3 anni 50 milioni di euro, quindi 50 milioni di investimento globale in 3 anni per arrivare a raddoppiare il fatturato attuale di Eraclea. Ma l'operazione bisogna intenderla più che altro per noi come una mossa strategica per migliorare l'offerta e la nostra competitività nel canale Horeca. Infatti attraverso Eraclea noi abbiamo la possibilità di ampliare significativamente la nostra offerta e renderla completa. Cos'è il canale Horeca? Mi scusi l'ignoranza. È il canale del hotel, restaurant e cafeterias, caffè, del consumo fuori casa. Nel consumo fuori casa, non ecco nel retail, come lo chiamate, esatto, voi. Non nel caffè che compriamo per la mocca, adesso io traduco in maniera un po' prosaica. Quindi 50 milioni in 3 anni con l'obiettivo, mi diceva, mi scusi? Di raddoppiare il fatturato attuale di Eraclea, che è intorno ai 26 milioni di euro, e portarlo a 50 milioni. Questo è sicuramente un obiettivo molto ambizioso, ma noi pensiamo di realizzarlo mettendo a disposizione di Eraclea il nostro network internazionale. La Lavazza è presente in 90 paesi, Eraclea realizza la stragrande maggioranza del suo fatturato in Italia, e noi pensiamo che il semplice portare Eraclea all'estero ci aiuti in questo ambizioso progetto che abbiamo fatto. Beh, insomma, quindi un'operazione di consolidamento, cioè andate a aumentare anche la struttura e soprattutto i canali di vendita, e se ho ben capito diversificare anche i marchi, così uno, perché venderete i prodotti Eraclea attraverso anche la rete Lavazza. No, noi pensiamo di lasciare le due aziende indipendenti, non vogliamo disperdere quelle che sono le attuali forze di Eraclea, che sono la capacità di innovare sui prodotti e la forza della loro forza vendita. Ci sarà ovviamente un grandissimo coordinamento tra le due aziende, in modo tale da poter mettere Eraclea laddove c'è Lavazza e Lavazza laddove c'è Eraclea. Ecco, questo vuol dire però che, visto che voi avete la presenza in 90 paesi, loro in 30 paesi, è vero che hanno 20.000 punti vendita, ma insomma vuol dire che nei paesi dove loro non sono presenti si appoggeranno anche alla vostra struttura? Questo sì. Mi permette di chiudere di nuovo sull'India, perché Fresh Honest e Barista, no? Che Barista è la seconda catena indiana di coffee shop, no? Sì. Ecco, come vanno i numeri lì? Perché sono curioso sull'andamento dell'India. L'India è un paese di 1.200.000.000 di persone con un'economia in fortissima crescita. Si calcola che in 10 anni il 25% della popolazione indiana avrà una capacità media di acquisto pari a quella media dell'Italia. Quindi per noi è come se parlassimo di 6 Italie. Il vantaggio dell'azienda familiare è che l'azienda familiare può fare degli investimenti nel lungo termine o con un'ottica di lunghissimo termine. Tra 10 anni noi avremo potenzialmente 6 Italie. L'Espresso cresce a tassi molto interessanti, la Lavazza ha una forte reputazione e credibilità nel mondo dell'Espresso, noi crediamo di poter fare un buon lavoro. Perché abbiamo preso una catena di coffee shop ed un'azienda di distribuzione? Ma il coffee shop ci serve soprattutto per diffondere brand e prova dell'Espresso, l'azienda di distribuzione ci serve per distribuire i prodotti. Sono le due armi attraverso i quali pensiamo di penetrare. Per cui da un lato uno diciamo, vende, assaggia il caffè nel coffee shop e dall'altro la catena di distribuzione permette poi di commercializzare il caffè stesso, se posso. Esattamente. Ultima domanda riguarda la Cina, visto che stavamo ragionando sull'estero. Voi siete presenti, ma soprattutto immaginate un'acquisizione del tipo indiano, oppure lì culturalmente c'è più differenza? Sappiamo che insomma, la classe medio-alta indiana è tutta di formazione britannica, quindi c'è anche una vicinanza più forte, pur essendo loro un paese da sempre storicamente consumatore di tè. I consumi in Cina sono molto meno interessanti dei consumi in India. Si calcola a un decimo dei consumi indiani, che per intenderci attualmente sono un centesimo di quelli italiani. Quindi francamente in questo momento a noi è apparso un paese meno interessante della Cina. Abbiamo invece degli altri obiettivi, che sono in generale il sud-est asiatico, l'est Europa e il Sud America, che consideriamo paesi di interesse più immediato. Ci chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666 sui 4.000 dipendenti che avete come Lavazza, 1.600 sono in India, quanti sono quelli italiani? 2.000. Quindi la metà italiana. E resteranno italiani, cioè non state pensando di delocalizzare, casomai di aumentare la presenza all'estero? Assolutamente non pensiamo di delocalizzare, anche perché l'espressa all'italiana non si può fare che in Italia. Perfetto, la ringrazio, in bocca al lupo per l'operazione che porta appunto ad acquisire i marchi Eraclea, Dulcimè e Whittington all'amministratore legato del gruppo Lavazza, Gaetano Mele. Grazie mille, arrivederci, buonasera. E allora, ogni tanto vedete che si trovano anche le buone notizie, adesso il traffico e poi invece torniamo, ahimè, a raccontare le difficoltà di questa volta dei costruttori. Il dato di oggi dell'Istat segnala un 2009, come immaginabile, pesante anche negli ultimi mesi però del 2009. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, eccoci all'ultima parte di Focus Economia, il settore delle costruzioni. Noi come sempre ci occupiamo della cronaca e dell'attualità. E oggi l'Istat ha dato i numeri definitivi sul 2009. La produzione del settore costruzioni, quindi edilizia, è diminuita dell'11,4% nel 2009 rispetto al 2008. La cosa più interessante, anche se non bella, è che anche negli ultimi tre mesi del 2009 c'è stato un meno 1% rispetto al trimestre precedente, un meno 8% rispetto all'ultimo trimestre 2008. A noi interessa il trimestre sul trimestre, meno 1% vuol dire che il settore è ancora in frenata e in difficoltà. Ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento il presidente dei giovani imprenditori dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale di Costruttori dell'Edilizia, Alfredo Letizia, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, tra l'altro noi ci occupammo di voi un mese fa perché il CRESME stimò altri 150.000 posti di lavoro che potrebbero essere persi nel 2010 nell'edilizia, dopo i 100.000 persi nel 2009. Ci dica se le torna, visto che lei presiede i giovani imprenditori nel settore dell'edilizia, anche la parte finale dell'anno e soprattutto i primi mesi del 2010 sono mesi sofferti? Assolutamente sì, purtroppo non vorrei essere neanche quello che parla solo di dati negativi. Il periodo che ci aspetta probabilmente sarà ancora più negativo, perché adesso per noi comincia il periodo più nero, c'è bisogno immediatamente di correttivi, di interventi specifici, perché le imprese stanno terminando i propri portafogli lavoro, per cui si immagina che la crisi la cominciamo a sentire noi veramente adesso. Sì, attento Presidente Letizia, perché abbiamo un animale che è il nostro gufo, se continua così poi mi tocca farlo partire, perché... Lo so, ma mi farebbe tanto piacere parlare di cose positive, però purtroppo in questo momento non siamo ancora pronti per farlo. Ci sono sicuramente dei dati positivi, ci sono sicuramente delle cose che ci possono far ben sperare per il futuro, quindi il partenariato pubblico-privato sta crescendo, è arrivato nel 2009 a rappresentare il 31% del valore totale del mercato delle opere pubbliche, per cui significa che laddove il privato entra nel mercato pubblico probabilmente qualcosa si può fare. Ecco, occupiamoci del piano casa 2, perché se ho ben capito voi avete stimato per il 2010 un calo produttivo che potrebbe essere o del 7% senza piano casa 2 o del 3.9, sempre un bel calo, ma comunque minore, quasi la metà, se vi sarà anche quest'anno il piano casa. Guardi, noi sul piano casa 2 avevamo riposto tantissime aspettative per la ripresa del settore, però da quello che si vede questo piano non riesce a decollare, per cui effetti sostanziali sui livelli produttivi si potranno manifestare, se si manifesteranno, solamente nel medio periodo. La funzione anticongiunturale che doveva avere questo piano quindi è mancata. Credo che se le cose dovessero andare come tutti quanti noi speriamo, cominceremo a vedere gli effetti nel 2012, nel 2013, ma assolutamente non prima. Purtroppo gli accordi regione-comune, Stato-regione che ci devono essere in tempi brevi, ne parlavamo ad aprile, non ci sono stati. La reale urgenza di questa legge purtroppo è stata messa in secondo piano a causa di cose probabilmente molto più gravi, vedi terremoto dell'Aquila. Diciamo che in questo momento gli effetti non li sentiamo, speriamo di sentirli a breve, però c'è bisogno di darsi un attimino da fare, perché è il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche, non piangere giustamente come lei dice, però bisogna cominciare a lavorare seriamente. Ecco, alcuni ascoltatori chiedono, ma insomma un settore come il vostro, le costruzioni, che negli anni dal 2002 in poi ha avuto tassi di crescita molto forti, poi c'è stato il boom del mattone addirittura, dovrebbe aver messo del fieno in cascina per anni più difficili o no? Ma guardi, probabilmente potrebbe essere questa una cosa vera, però se andiamo a vedere gli ultimi 5-6 anni siamo in costante decremento, per cui non è semplice mantenere le imprese come le nostre, che sono poi, noi gli operai sono collaboratori, sono delle famiglie, io la sentivo prima parlare di mercato del lavoro, per noi è sempre molto difficile licenziare e mandare in mezzo alla strada una persona, perché significa rovinare una famiglia. Però sono 94.200 i lavoratori che purtroppo nei 9 mesi del 2009 sono stati a casa, sono stati mandati a casa, e questo purtroppo secondo me è anche un numero che è destinato ad aumentare. La figura del costruttore giustamente viene sempre vista come la figura dello speculatore, di quello che fa sempre tanti, lo sfruttatore, si ricorda il film Le mani sulla città. Lo facciamo sentire ogni tanto, perché lì però è più per il rapporto malsano tra politica delle volte e piani edilizi, è per un altro motivo, non per lo sfruttamento in sé, ma proprio per come la politica può rovinare il progresso. Prego comunque, Presidente Letizia. Ma guardi, io mi riaggancio ancora a questa sua affermazione, allora. Noi come giovani dell'ANCE stiamo organizzando un convegno veramente molto importante, dove si parlerà secondo me del tema base di questo momento, che è la responsabilità. In questo momento noi imprenditori per primi dobbiamo assumerci una serie di responsabilità, ma la politica, la pubblica amministrazione devono veramente seguire le linee che dettano, devono veramente fare quello che dicono, perché altrimenti ci stiamo un attimino impantanando in qualcosa che non funziona. Ecco, noi di questo abbiamo parlato anche con il presidente dei Senio dell'ANCE, e mi riferisco a Buzzetti, però visto che lei rappresenta i giovani, e si dice sempre i giovani sono il futuro, con un bel po' di retorica anche, però restiamo sul tema della legalità, o meglio degli accordi, perché voi soffrite, quantomeno come immagine, di un'opinione pubblica che ritiene il costruttore quello che poi si mette d'accordo col politico negli appalti. Adesso le vicende delle ultime settimane certo non aiutano, e poi anche con l'idea che molto del nero, delle infrazioni sul mondo del lavoro, della mancata rispetto delle norme di sicurezza avvengono proprio nel vostro settore. Che cosa potete fare come associazione? Anche lì, espellere chi fa questo, un po' sulla falsariga di quello che il resto di Confindustria ha fatto con gli imprenditori che pagano il pizzo e vengono ad accordi con la mafia, con le mafie? Ma ognuno di noi ha una sua opinione su questo discorso che ha fatto Confindustria, che può essere anche una cosa giusta, però io partirei dalla base. Se c'è una presenza totale e assoluta dello Stato, tutto ciò non accade. Nei territori un attimino più degradati del meridione, io vengo da Napoli, certe cose si sentono un pochettino di più e certi imprenditori si sentono anche un po' più soli. Qualora lo Stato si metta veramente a vedere quali sono le nostre necessità, probabilmente certe cose non accadrebbero, così come credo che non accadano. Lei parlava anche di sicurezza, abbiamo avuto modo di parlarne anche l'anno scorso, di tante cose che si sentono, però non credo che molte riguardino le imprese iscritte all'ANCE. L'ANCE ha un suo codice ben preciso che segue e cerca di far rispettare a tutti i suoi associati. Cerchiamo di distinguerci. Purtroppo non rappresentiamo una percentuale molto grossa di tutte le imprese di costruzione, ma credo che la qualità delle nostre imprese, la qualità dei nostri imprenditori sia assolutamente molto elevata. Allora, Presidente Letizia, io la ringrazio, anche perché commentare questi dati non è facile. Mi dice solo in una battuta se vi farebbe meglio un piano casa 2 o ripartire degli investimenti infrastrutturali, quindi le opere pubbliche. Meglio il piano casa 2 o le opere pubbliche? Ma meglio entrambe. Vabbè, uno dei due. Ma opere pubbliche, tante, piccole e subito. Bene, grazie, grazie anche per la sintesi, al presidente dei giovani costruttori del Lancio, da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 24, Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.